Melomaníacos. Y comenzamos nuestro tiempo dedicado a la música. Hoy hablaremos de Ornella Vanoni, la escucharemos también, pero antes, como siempre, algunos datos sobre su biografía. Ornella Vanoni es una cantante de música melódica y actriz italiana, una de las intérpretes de música ligera más reconocida internacionalmente. Vanoni se acerca al mundo del espectáculo iniciándose en 1953 como actriz. En 1961 graba su primer disco para la discográfica Ricordi. Sus primeros éxitos como cantante llegan con las conocidas como Canzoni della Mala, un repertorio popular que retrata con dramatismo la mala vida milanesa. Thank you. En 1965 intensifica su actividad como cantante e inicia una trayectoria estelar llena de éxitos que la lanzan a la fama y la convierten por su elegancia y sensualidad interpretativa en gran señora de la canción italiana, que es como la conocemos. Su repertorio se enriquece también de temas de autores como Domenico Modugno o Charles Aznavour, entre otros. Quando penso a quello che ho vissuto io, alle cose che mi han dato, alle cose che mi han tolto, posso dire già che torna il conto mio. Posso dire che perciò alla vita devo molto. Qualche graffio sopra il cuore me lo sono fatto anch'io, camminando nei roveti dei tormenti miei. Meglio avere dei rimorsi o dei rimpianti, è un dubbio mio, ma ti dico che alla fine tutto quanto rifarei. Se la vita è solo un volo che passa, capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa, anche se non sai cos'è. Forse un sogno che è rimasto là dov'è, e comunque sia, altro cielo c'è. Quando penso a quello che ho vissuto io e a dove mi han portato le mie scorrerie d'amore, imparando a riconoscere così un'insolita emozione da un normale batticuore, ho raccolto fiori rotti dalla grandine, però dopo quanti temporali non saprei. Ma li ho ripiantati tutti, non mi sono arresa, no, perché poi almeno uno rallegrasse i giorni miei. Se la vita è solo un volo che passa e va, so che l'ho vissuta almeno, so che l'ho vissuta in pieno. Poi non so se in fondo capita pure a te che ti manchi ancora qualcosa, che ti manchi ancora qualcosa come a me. En 2008 se han cumplido 50 años en la música y se ha editado el disco de duetos Più di me, del que están escuchando un tema en colaboración con Eros Ramazzotti, y en el que han colaborado diferentes autores de música italiana de ayer y de hoy, y pertenecen estos dos temas que hemos escuchado. El primero, L'Appuntamento, formó parte de la banda sonora de la película Ocean's 12, y lo eligió el mismo George Clooney. La escuchó, le encantó y dijo, bueno, pues para la banda sonora de la película. Y para despedir este monográfico de Ornella Vanoni, os vamos a dejar con otro de los temas de este mismo disco Più di me, Lo show che ti amerò. Io so che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò e in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza io so che ti amerò. E tu ogni mio pensiero è per dirti che io so che ti amerò. Per tutta la mia vita Io so che piangerò ad ogni nuova assenza, piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita. Io ti lascerò, tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso, le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita. Preciosa canción. No sé si a vosotros os pasa, pero yo podría pasarme la vida escuchando cantar en italiano, porque me parece un idioma que suena estupendamente, de lo más musical.